Boombox, man. Sono i primogenito. Postumi di una stronza, man. Sì, sì. Ok. Non vedo, non parlo, non sento, ma penso male. Io penso male, tutto il resto del tempo non penso a trovare il doppio senso in tutto questo. Tu pensa come ti pare, guarda, tanto è lo stesso. Non perdo tempo a parlare di te. Perché? Non mi diverto. Io penso male, tutto il resto del tempo non penso a trovare il doppio senso in tutto questo. Tu pensa come ti pare, guarda, tanto è lo stesso. Non perdo tempo a parlare di te. Perché? Non mi diverto. Fammi passare, uomo, sono fresco. Vi detesto, lo stress quando esco vesto serio. Non riesco a restare fuori dai guai del resto. Tu fai presto a parlare che in giro non ci sei mai. Ma fai best of, c'è la mia foto sul desktop. Ti investo, se fai l'ostaggio del vescovo ti pesto. Come una merda giri col cesso aperto. Ti attacco al muro come un manifesto. Ecco, tu vieni presto, io non sono certo il tipo. Non sono certo la tipa che ti baceresti a letto. Quindi tace, resta letto. Non mi sembri il tipo del ghetto che nel tuo pezzo al pezzo nascosto nel testaletto. Non mi confesso con te ma quello che penso dico, per me è quasi un rito usare spesso il terzo dito. Ogni mio testo un gancio destro verso un mio nemico. Sono estroverso come tipo e viaggio a personal nell'universo. Io penso male, tutto il resto del tempo non penso a trovare il doppio senso in tutto questo. Tu pensa come ti pare, guarda, tanto è lo stesso. Non perdo tempo a parlare di te. Perché? Non mi diverto. Io penso male, tutto il resto del tempo non penso a trovare il doppio senso in tutto questo. Tu pensa come ti pare, guarda, tanto è lo stesso. Non perdo tempo a parlare di te. Perché? Non mi diverto. Scommetto che ti senti male, stai andando allo sbaglio. La gente che conosci tende a minimizzare tutto e tanto. Passi i giorni sul banco fingendoti stanco. Io sto sul palco eleggendomi a capo del branco. Sono il lato del mondo che non stai considerando. Sono ubriaco, ma nel tuo caso non confondo la merda col fango. Sono un rapper del cazzo, te l'ho già detto. Puoi baciarmi il cazzo, tanto non rimangio ciò che ho detto. Sono un dispetto, ho sempre disdetto tutte le serate perché dalle date mi sento costretto. Sempre lo stretto è necessario, sempre detto è necessario. Sono un maledetto e non ho mai detto il contrario. Sono più vario di te, se so scenario triste, porno riviste nel bagno, sogno le farmaciste, fuori dall'iste, dalle piste mister, in omaggio a consumazioni voglio almeno le bariste fighe. Io penso male, tutto il resto del tempo non penso a trovare il doppio senso in tutto questo. Tu pensa come ti pare, guarda, tanto è lo stesso. Non perdo tempo a parlare di te. Perché? Non mi diverto. Io penso male, tutto il resto del tempo non penso a trovare il doppio senso in tutto questo. Tu pensa come ti pare, guarda, tanto è lo stesso. Non perdo tempo a parlare di te. Perché? Non mi diverto.